Siamo con Roberto Scarpetti, autore dello spettacolo Falafel Express al Teatro India il 25 giugno. Roberto, ben trovato. Ce lo descrivi? Sì, allora, Falafel Express nasce da un'idea di Elisabetta Canosio, la regista, con cui ho già lavorato in varie combinazioni. E 2 anni fa, mentre stavamo facendo Prima della bomba, in cui Elisabetta era l'assistente di Cesar, mi dice che voleva fare, avrebbe voluto fare uno spettacolo che portasse a teatro il linguaggio della graphic novel, quindi insomma qualcosa che si avvicinasse al linguaggio del fumetto. Lei aveva letto parecchie graphic novel straniere, più o meno tutte quante sulla stessa tematica, cioè quella di ragazzi di seconda generazione in Europa, quindi voleva raccontare quel tema lì, con il linguaggio della graphic novel. Oltretutto noi stavamo facendo qualcosa che in qualche maniera riguardava il mondo islamico, appunto Prima della bomba, uno spettacolo sul terrorismo islamico in Europa, e quindi c'erano delle connessioni tematiche tra quello che voleva raccontare Elisabetta e il lavoro che stavamo facendo. Quindi in quel periodo abbiamo cominciato a parlarne e da questa collaborazione è nato lo spettacolo che ho scritto appositamente per la produzione che è fatta dalla compagnia di Elisabetta che si chiama Lumen. E lo spettacolo affronta, racconta una commedia, quindi è un spettacolo rispetto a quello che faccio in chiave molto più leggera rispetto a quello che faccio in genere, intendevo, Sì. e racconta le vicende di un diciottenne italiano perché è nato in Italia, però di fatto non è italiano perché è figlio di genitori stranieri, padre egiziano e madre siriana, ma lui nasce e cresce in Puglia, lui lascia la Puglia per andare a studiare al nord Italia, si accorge che rispetto alla piccola città in cui è cresciuto, in cui non aveva la percezione di essere straniero, perché comunque aveva sempre frequentato gli abitanti del quartiere, la scuola, insomma, in questo trasferimento al nord si rende conto di non essere italiano, proprio perché gli arriva molto forte il giudizio degli altri rispetto al suo essere arabo e musulmano, e oltretutto senza neanche documenti italiani, perché è in regola con i documenti, ma non è. E questa cosa che porta a avere una crisi identitaria che in realtà si sviluppa su più piani, perché diventa una crisi dello studio, una crisi nella famiglia, una crisi sentimentale, che lo porta a chiedersi chi è veramente. Quindi diciamo che lo spettacolo è una sorta di viaggio all'interno della formazione di un ragazzo che cerca di definire se stesso e definire la propria identità. Perché ovviamente in parte lui è italiano, ma non è solo italiano, è anche qualcos'altro. Quindi diciamo che lo spettacolo parla di quella che è l'identità e di come si forma l'identità in un momento in cui, grazie anche a questo fantastico nuovo governo che si ritrova, le identità sono definite per contrapposizione. E quindi o sei questo o sei quello, ma è molto più facile definire quello che non sei, quindi definire il tuo amico, che invece definire la tua appartenenza. Roberto, la graphic novel entra comunque in scena insieme al corpo degli attori? Nel senso che il linguaggio del fumetto è utilizzato in vari modi, cioè il modo più semplice è quello di utilizzare delle videoproiezioni che sono in parte scenografia, ma in parte anche racconto, dipende dalle scene, dalle situazioni. Comunque costantemente ci sono queste videoproiezioni da fumetto, da graphic novel, però questo linguaggio poi entra fisicamente in scena, non soltanto con la videoproiezione, perché la scenografia è come se fosse bidimensionale e disegnata. Non so se spiegarti come, però, per esempio, c'è un tavolo, il tavolo è bianco, ma tutti i contorni del tavolo sono se fosse all'immagine scenografica. Quindi maggio e infatti dei costumi e anche quelli disegnati. Ok, senti, i disegni sono andati di pari passo alla tua scrittura o prima è venuta un elemento e poi l'altro? Prima un elemento e poi un altro. Ok, e dopo questa data all'India che succederà? Non lo so, nel senso che lo spettacolo è debuttato a marzo a Campo Teatrale. Sì. Adesso c'è questa data in questo festival che si sta tenendo a Roma, che è a India, che è Roma, città, mondo. Sì. Per la stagione prossima non so bene, perché credo che non siano ancora state definite le date, ma lo spettacolo dovrebbe andare a Genova al Teatro della Tosse. Ho capito. Va bene, allora ricordiamo l'appuntamento con Felafel Express al Teatro India il 25 giugno. Un saluto e un ringraziamento all'autore Roberto Scarpetti. Roberto, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie, a presto, grazie a te Federico. Ciao. Ciao.